Componimento 33esimo dei canti di Giacomo Leopardi. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Il tramonto della luna. Quale in notte solinga, sovra campagne inargentate ed acque, l'ave zefiro aleggia e mille vaghi aspetti e ingannevoli obietti fingon l'ombre lontane infra l'onde tranquille e rami e siepi e collinette e ville. Giunta al confin del cielo, dietro Appennino o d'Alpe o del Tirreno, nell'infinito seno, scende la luna e si scolora il mondo. Spariscon l'ombre ed una oscurità la valle e il monte imbruna, orba la notte resta, e cantando con mista melodia l'estremo albor della fuggente luce, che dianzi gli fu duce, saluta il carrettier dalla sua via. Tal si dilegua e tale lascia l'età mortale la giovinezza. In fuga van l'ombre e le sembianze dei dilettosi inganni, e vengon meno le lontane speranze, ove s'appoggia la mortal natura, abbandonata, oscura, resta la vita. In lei porgendo il guardo, cerca il confuso viatore invano del cammin lungo che avanzar si sente meta o ragione, e vede ch'a sé l'umana sede esso a lei veramente è fatto estrano. Troppo felice e lieta nostra misera sorte parve lassù, se il giovanile stato, dove ogni ben di mille pene è frutto, durasse tutto della vita il corso. Troppo mite decreto, quel che sentenzia ogni animale a morte. Sanco mezza la via, lor non si desse in pria della terribil morte assai più dura. D'intelletti immortali, degno trovato, estremo di tutti i mali, ritrovar gli eterni la vecchiezza, ove fosse incolume il desio, la speme estinta, secche le fonti del piacer, le pene maggiori sempre, e non più dato il bene. Voi, collinette e piagge, caduto lo splendor che all'occidente inargentava della notte il velo, orfane ancor gran tempo, non resterete, che dall'altra parte tosto vedrete il cielo imbiancar novamente e sorger l'alba, alla qual poscia, seguitando il sole e folgorando intorno con sue fiamme possenti di lucidi torrenti, inonderà con voi gli eterei campi. Ma alla vita immortal, poi che la bella giovinezza sparì, non si colora d'altra luce giammai, né d'altra aurora. Vedova è insino al fine, e dalla notte che l'altra età di oscura segno poser gli dèi la sepoltura. Fine del componimento 33esimo.